Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da giugno a dicembre del 1826. Ravenna, attentato dei carbonari al cardinale Rivarola, è vivo ma lascia l'incarico. Prosegue l'assedio dei turchi ad Atene, sono in città, ora accerchiano l'acropoli. In 30.000 a Parigi per vedere la giraffa donata dal viceré d'Egitto al re di Francia. Ultima invenzione francese, l'immagine che nasce dalla luce. Buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura dunque andiamo nello Stato Pontificio. Agostino Rivarola ne è uscito senza danni, ma ha scioccato al punto da rinunciare all'incarico che da oltre un anno lo vedeva protagonista della durissima azione di lotta alla carboneria nelle Romagne. Il cardinale Rivarola, legato pontificio con pieni poteri, l'uomo che il 31 agosto dell'anno scorso ha fatto condannare a varie pene 514 persone di tutti gli strati sociali e che pure ha iniziato una politica di modernizzazione amministrativa, è stato oggetto lo scorso 23 luglio di un temerario attentato a Ravenna. Un uomo gli ha sparato sporgendosi nella carrozza in cui era appena salito insieme al canonico Don Ignazio Muti. Quest'ultimo è stato ferito, ma il cardinale legato si è salvato. Di lì a pochissimo, tuttavia, ha lasciato la Romagna per Roma e suo successore è stato nominato Monsignor Invernizzi, che lo aveva assistito in questi mesi. Il Papa ha dato a Filippo Invernizzi pieni poteri di inquisire, giudicare e condannare senza appello i sospettati dell'attentato. Finora, tuttavia, nonostante le indagini e una taglia di 10.000 scudi, l'attentatore non è stato individuato. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Va avanti l'assedio dei turchi alla città di Atene, dove sono asserragliati i ribelli che lottano per l'indipendenza dall'impero ottomano. L'esercito di Ibrahim Pascià è riuscito ad entrare e ora ha accerchiato l'acropoli, ultimo baluardo dei rivoluzionari, ai quali le grandi potenze europee stanno guardando con interesse. Sembra che vi possa essere un intervento addirittura militare in loro favore. Ed è proprio per attenuare questo rischio che il viceré egiziano Mehmet Ali Pascià, padre di Ibrahim, ha inviato al re francese Carlo X una missione con dei regali. Tra questi c'è un animale che in Europa non si vedeva da 4 secoli, dai tempi di Lorenzo de' Medici. Si tratta di una giraffa, specie di grosso cavallo dal collo lunghissimo, giallo e dalle chiazze marroni. Sono 30.000 i parigini che sono accorsi per vederla. Restiamo in Francia, dove un inventore, Nicéphore Niépce, sostiene di essere riuscito a riprodurre quel che vede dalla sua finestra non con pennello e tela, ma solo grazie alla luce, tramite un complicatissimo sistema chimico. Ha chiamato la sua invenzione eliografia. Molti editori di libri e quotidiani sembrano interessati al suo lavoro e lui si starebbe muovendo su Parigi per cercare nuove occasioni. È tutto sul nostro sito, potete scaricare il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie, visitate il blog, la pagina Facebook, lasciateci un commento, fatelo prendendo penne e calamaio elettronici, l'indirizzo è sempre quello, gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione e l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.